Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi parlo di un'iniziativa letteraria e non soltanto che si svolge sul Lago Maggiore, si è già aperta a Verbania, adesso prosegue a Stresa, sul Motterone, a Cannobio e a Varzo. Si intitola Lago Maggiore letteraria. Letteraltura ed è un festival di letteratura di montagna, viaggio e avventura. L'evento prevede appuntamenti di ogni genere, incontri, colazioni, aperitivi con gli autori, musica e parole e scene, cine incontri, esperienze per bambini e ragazzi, escursioni e visite guidate e infine un omaggio a Massimo Mila. Si svolgerà questo appuntamento fino al 18 luglio e potete trovare il programma su www.letteraltura.it. In questa occasione vi segnalo alcuni libri legati alla letteratura di montagna. Comincio con una raccolta di testi che si intitola Sul tetto del mondo, la spaventosa maestosità della montagna, il trionfo e la tragedia di chi l'ha conosciuta e l'ha sfidata. È curato da John Lewis ed è tradotto da Fiammetta Ciuffi, Andrea Tranquilli e Doriana Tucci per Newton Compton. 522 pagine, €14,90. Troviamo qua 31 racconti su altrettante imprese di grandi alpinisti sulle vette più difficili. E c'è uno spirito comune che naturalmente è partecipato da tutti i protagonisti di questi racconti, e cioè quello dell'avventura in montagna, che esprime bene nella postfazione Albert Mammery, che è stato uno dei maggiori alpinisti, era inglese, il quale precipitò nel 1895 in Kashmir. Sentiamo dalle sue pagine alcune righe che esprimono bene lo spirito con il quale gli alpinisti affrontano le loro avventure. Il vero alpinista è un vagabondo. E per vagabondo non intendo una persona che trascorre tutto il suo tempo viaggiando da e per le montagne sulle tracce precise dei suoi predecessori, più o meno come i ciclisti corrono lungo le strade a pedaggio dell'Inghilterra. Ma intendo un uomo che ama essere dove nessun altro essere umano è stato prima, che ama aggrapparsi a rocce che mai prima hanno sentito il tocco di dita umane, o farsi strada su per canaloni ricoperti di ghiaccio, le cui ombre oscure sono state consacrate alle nebbie e alle valanghe da quando la Terra nacque dal caos. In altre parole, il vero alpinista è l'uomo che tenta nuove scalate. Così, che riesca o fallisca, gode divertendosi e faticando. I lastroni desolati e nudi, i gradini squadrati e scoscesi sul crinale e il ghiaccio nero che sporge dal canalone sono il vero alito di vita per il suo spirito. Non pretendo di essere in grado di analizzare questo sentimento, ancor meno di chiarirlo agli increduli. Deve essere sentito per essere compreso, ma è essenziale per essere felici e fa tremare il sangue nelle vene, distruggendo ogni traccia di cinismo e colpendo proprio alle radici la filosofia pessimista. Nel libro si parla anche di Reinhold Messner, che qui racconta la scalata senza l'ausilio dell'ossigeno che compie sull'Everest nel 1980. Di Messner vi segnalo due titoli. Innanzitutto, da Corbaccio è uscito La montagna a modo mio, 358 pagine, €19,60, tradotto da Valeria Montagna. Questa è una raccolta di scritti che permettono di comprendere l'atteggiamento invece di Messner nei confronti della montagna, ma soprattutto nei confronti di se stesso. Scalo, spiega l'alpinista, per mettermi alla prova e per verificare il mio limite. E questo limite, secondo Messner, è quasi considerato come un elemento artistico. Le terre oscure, scrive, sono dentro di noi. Le zone oscure della cartina geografica sono infatti state tutte indagate, scrive. Ma ce ne sono tante di zone oscure dentro di noi ed è per queste zone oscure, aggiunge, che vale ancora la pena di recarsi in quei territori che non sono fatti per l'uomo. Così per me le montagne alla notte artica, intese come deserti, corrispondono solo a ciò che dentro di me è deserto, scuro e irraggiungibile. Interessante un'intervista contenuta in questo libro, un'intervista del 1993, in cui Reinhold Messner spiega come applicare alle tecniche di management i canoni dell'alpinismo e delle imprese estreme. Sentiamolo. Anche se posso parlare solo delle mie esperienze personali, credo che nel territorio estremo delle imprese al limite, ascensioni, attraversamento di deserti o distese di ghiaccio, molti problemi possano essere, dal punto di vista strutturale, paragonati a quelli del management. In entrambi i casi è importante la questione della leadership, che si distingue per creatività, coraggio, spinta innovativa, che si tratti di motivazione, logistica, strategia, di creare un senso o di stimolare gli altri in vista di un'idea nuova. Certo, ci sono alcune differenze. L'esperienza in montagna è più limitata per quanto riguarda la portata delle conseguenze. Nel mio caso, dalle mie decisioni e dalle mie conoscenze, dipende solo il fatto se andrò avanti o meno, ma non l'intera impresa. Per me si tratta di sopravvivenza in senso concreto e non solo della sopravvivenza di un'impresa. Vedo il mio libro come un'offerta. Le persone aperte, sveglie, possono in questo modo partecipare alle esperienze che ho collezionato personalmente in situazioni estreme e in una fase particolare della mia vita. Non ho una ricetta specifica, ma da una prospettiva inconsueta posso offrire soluzioni a problemi ricorrenti, non necessariamente estremi. Per esempio? Camminare come atto meditativo. I dirigenti sottoposti a forti pressioni emotive e mentali spesso partoriscono idee nuove quando per un breve periodo dimenticano il loro lavoro e magari si concedono una passeggiata all'aria aperta, in un bosco. Per una volta non fanno nient'altro che camminare, un passo dopo l'altro. All'improvviso riescono a pensare in maniera più chiara e ampia, riescono a guardare dentro di loro, a prendere le distanze e di conseguenza a trarre conclusioni precise per il futuro. L'altro titolo di Reinhold Messner, pubblicato sempre da Corbaccio, è Razzo Rosso sul Nango Parbat, 306 pagine, 18,60 €, tradotto sempre da Valeria Montagna. Ci furono tante polemiche sulla spedizione al Nanga Parbat nel 1970, nella quale perse la vita il fratello di Messner, Günther. Allora l'alpinista scrisse un resoconto anche per rispondere a quelle polemiche che lo avevano diviso dal capo spedizione di allora, che lo accusava di essere in parte corresponsabile della morte del fratello. Nel frattempo sono emersi alcuni elementi che hanno confermato la versione di Reinhold Messner, che ora questi ripropone aggiornando quelle drammatiche testimonianze qui arricchite da molte immagini. Un romanzo alpinistico è quello di un imprenditore appassionato di montagne e di scrittura, Lodovico Acerbis, Quattro squinternati e una nuvola bianca, è pubblicato da Manni, 408 pagine, 25 €. Con Acerbis andiamo in Tibet, con quattro cinquantenni che dalle Alpi Orobiche si avventurano verso l'Everest, scoprendo prima la regione, poi gli effetti dell'occupazione cinese, che faranno discutere anche qualche compagno comunista inossidabile, e rincorrendo un tema, quello delle donne, che spesso assumono la forma e la consistenza di una nuvola, ma soprattutto al centro della scrittura di Acerbis c'è la descrizione degli effetti straordinari di questa esperienza lontana. Restiamo in Tibet con il Dalai Lama, di cui esce l'autobiografia spirituale, pubblicata da Mondadori, 214 pagine, 18,50 €, tradotto da Luca Vanni e curato da Sofia Strill Rever. Questa è una serie di testi legati insieme dai temi e dal commento della curatrice. Troviamo riflessioni del Dalai Lama sull'uomo, sul buddismo, sul proprio ruolo nel mondo. E in particolare il Dalai Lama parla della situazione del Tibet dopo l'occupazione cinese. Sentiamo nelle parole della curatrice la condizione di quella regione nel periodo forse peggiore dell'occupazione cinese, quella seguita alla rivoluzione culturale di Mao. Nel giugno del 1966 Mao istituì le Guardie Rosse, incaricate di distruggere i Quattro Vecchi. Vecchie idee, vecchie culture, vecchie tradizioni, vecchie abitudini. In Tibet la rivoluzione culturale fu proclamata ufficialmente il 25 agosto 1966 con la parola d'ordine di distruggere la cultura tibetana in tutte le sue forme. Fu così che 20.000 guardie rosse organizzate in fazioni rivali sottoposero Lhasa a saccheggi e razzie senza misura. I monasteri furono profanati e i loro beni preziosi portati via. In segno di scherno per la fede e la devozione, i testi sacri venivano usati per imbottire le calzature o come carta igienica. Le matrici di legno per stamparli erano sfruttate come assi per i pavimenti. Gli oggetti di culto realizzati in metalli preziosi venivano fusi. I tesori dell'arte religiosa tibetana venivano spediti in Cina per essere venduti al miglior offerente sui mercati internazionali di oggetti antichi. Il Partito Comunista Cinese aveva dichiarato senza mezzi termini: l'ideologia comunista e la religione sono due forze incompatibili. Le divergenze tra l'una e l'altra sono paragonabili a quelle tra il giorno e la notte. Tutte le pratiche religiose furono messe al bando ed ebbe inizio la distruzione sistematica dei monasteri. Per i tibetani, gli anni tra il 1966 e il 1979 rappresentano il periodo in cui l'occupazione cinese toccò la massima crudeltà. Come denuncia il Dalai Lama, l'identità tibetana fu aggredita anche sul terreno linguistico. Un gruppo di esperti inventò una lingua dell'amicizia sino-tibetana, che snaturava il tibetano a vantaggio di una terminologia più prossima al cinese. Dopo il Tibet vi propongo una passeggiata molto più vicina, ma ugualmente insolita, certamente alla portata di tutti, ma che ci può portare a riscoprire una città in maniera davvero curiosa. È il libro di uno scrittore francese nato 100 anni fa, Julien Gracq, che morì nel 2007, e si intitola Intorno ai sette colli, pubblicato da Mattioli 1885, 140 pagine, 16 euro, ed è tradotto da Paolo Luzzi. Julien Gracq era un nom de plume, l'autore in realtà si chiamava Louis Poirier e aveva assunto il cognome Gracq proprio in onore della tradizione repubblicana romana. In realtà poi a Roma lui andò molto tardi, nel 1976, a 66 anni, quindi visita Roma e ha una emozione strana, non quella consueta che colpisce tutti i visitatori, ma vede Roma come una sorta di palinsesto, priva di una sua autentica identità, nella quale si accatastano delle tradizioni e delle storie antiche. Scrive infatti che a Roma tutto è alluvione e tutto è allusione. Insomma, come nota il prefatore Andrea Vannicelli, a Roma lo scrittore è profondamente deluso di trovare solo vecchie rovine, chiese che spesso non trasmettono alcuna emozione e per il resto tutti i tratti tipici di una metropoli contemporanea. In tutto questo la città lascia intravedere qualcos'altro, scrive il prefatore, che traluce dal suo passato e prelude forse al suo futuro. E allora sentiamo queste righe che appunto ci danno il senso del giudizio conclusivo che Julien Gracq dà della città eterna. Per sedurmi completamente, a Roma è mancata quella convergenza monumentale che una città ottiene accentrando la propria immagine in un solo grande ricordo, tale da portare all'incandescenza un punto nel tempo, un secolo elettro tra tutti. Il 400 a Firenze, il 500 a Venezia, il 600 a Delft. Roma è un work in progress, accozzaglia sontuosa dei materiali urbani più disparati, in istanza di assemblaggio o di reimpiego. Un cantiere rumoroso dove agisce soprattutto il lavoro negatore del tempo, o piuttosto dove agisce il movimento della marea costruire-distruggere, pulsazione intima della città, il cui battito è tuttavia impossibile da captare sul suo polso. Un movimento che lì è fenomeno tangibile e visibile fino alla vertigine, essendo chiaro che accanto ad ogni monumento uscito dal sottosuolo si è lasciata sopravvivere una testimonianza di ciò che è stato rimpiazzato. Come in un magazzino ingombro che non vedrà mai svuotati i suoi reparti neanche per far posto a nuovi arrivi e dove per evitare che ci sia della merce respinta basterà spostare il tutto di quel tanto che serve. E a questo punto... Il confettino. Ci trattiene in ambienti insoliti ed esotici, in parte estremi, Ragazzi dei deserti, crescere in armonia con la natura di Tiziana e Gianni Baldizzone, pubblicato da Gallucci, 72 pagine, 16,50 euro. Questo è un bel libro per introdurre i ragazzi alla conoscenza di plaghe diverse, di popoli lontani, con molte fotografie ambientate nei deserti del Sahara, del Gobi in Mongolia, del Thar nel subcontinente indiano, ma anche nelle zone più gelide della Siberia e del Tibet. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, entriamo adesso nelle case, negli ambienti vissuti dai grandi protagonisti della letteratura francese con il libro Torri d'Avorio di Giuseppe Scaraffia. L'autore è un docente universitario e studioso di temi appassionanti come la seduzione. L'editore del libro Excelsior 1881, 424 pagine, 18,50 euro. Qui troviamo appunto, come recita il sottotitolo del libro, Interni di scrittori francesi nel XIX secolo, le case. Gli oggetti che sono stati più cari ai grandi scrittori, da Chateaubriand, Balzac, Hugo, Dumas, Baudelaire, Verne, Proust, Apollinaire e a tanti altri. E quindi questo diventa un viaggio nella civiltà letteraria dell'Otto-Novecento francese attraverso le abitazioni e gli arredamenti dei grandi scrittori, che trasmettono naturalmente la personalità, il gusto, la cultura di questi protagonisti. Ma sentiamo quali possono essere i risultati di questa indagine dall'autore. Buongiorno a Giuseppe Scaraffia. Buongiorno. Professor Scaraffia, in questo suo libro c'è un po' di voyeurismo osservando gli ambienti, le stanze, le case dei grandi scrittori del Novecento, o effettivamente questa indagine serve a scoprire qualche cosa di queste grandi personalità? Ma per me fare questo libro è stata anche una scoperta, perché ho capito quanto erano importanti per gli autori gli interni, ho capito che per loro in realtà la casa era la prima pagina bianca che si trovavano davanti e su cui loro creavano un ambiente evocatore, un ambiente che suggeriva, che aiutava e che diventava persino indispensabile per scrivere. Qual è lo scrittore più contemporaneo che lei ha trovato facendo questa indagine? Io ho trovato Apollinaire che addirittura dicevo: io per scrivere devo passeggiare e vorrei avere dei mobili sgonfiabili per poterli sgonfiare quando passeggio per scrivere e poi dopo poterli rigonfiare. E poi Apollinaire è stato il primo, ancora prima di Picasso, che ha scoperto l'arte negra e che andava nei mercatini raccogliendo le famose maschere che poi sarebbero state analizzate da Lévi-Strauss. Senta, descrivendo la vita di Proust, lei dà un'immagine di questo grande, grandissimo scrittore come di uno sostanzialmente costantemente estraneo, anche un po' i suoi tempi. Lei a un certo punto scrive: con la sua eleganza discreta è sorpassata prima l'era del dandismo démodé, indifferente agli imperativi del momento. Quindi un Proust estraneo che però resta sempre così attuale anche ai nostri tempi. Assolutamente, io devo dire, ho avuto una specie di shock quando al Museo Carnavalet ho visto i mobili della famiglia Proust. Proust non era un esteta del ricordo, e i mobili della famiglia Proust sembrano nuovi ancora adesso, un secolo dopo, e sono veramente bruttissimi, dei veri mobili di cattivo gusto, mobili inglesi in stile, però lui appunto voleva gli oggetti impregnati di memoria, impregnati di passato, e lui si chiudeva al presente per poter vedere meglio il passato. Ecco, veniamo appunto all'oggi. Oggi avrebbe senso fare un'indagine di questo genere? A me pare che, come in fondo già accennava lei, oggi le case hanno una tendenza all'uniformità e all'omogeneizzazione del gusto molto spiccata. Le case sono fatte dagli architetti, spesso sempre dagli stessi architetti, sono tutte bianche, zen, vuote. Ecco, allora la personalità dello scrittore o di chi le abita, secondo lei, può risaltare? Ma ormai oggi, diciamoci la verità, la nostra torre d'avorio non sono tanto gli oggetti che ci circondano, quanto il computer. Sembra paradossale, però sul computer possiamo avere qualsiasi immagine, le musiche più raffinate, leggere edizioni del Medioevo, qualsiasi possibilità, ecco, quindi è un mini ambiente che ci portiamo dietro. Però questo allora confermerebbe quello che dicono molti studiosi, che la digitalizzazione, tecniche moderne rischiano di far perdere molta memoria rispetto a quello che invece consentiva il passato con la pesantezza degli oggetti. Assolutamente, assolutamente, e noi vediamo che già a metà del Novecento gli autori si spostano nei caffè, si spostano all'esterno, e anche se la casa rimane così importante, lo è sempre meno, anzi, cioè, l'autore cerca, si pone una prospettiva, diciamo tra virgolette, ascetica. Ci sono gli autori che vivono in un albergo come Sartre, ci sono autori che vivono in locali appunto miserabili o anonimi, ecco, diciamo sempre più interiorizzata l'estetica. E anche tenere i libri diventerà sempre più faticoso. Quello, guardi, avremo, io non vedo l'ora di avere tutta la biblioteca sul computer. Bene, grazie a Giuseppe Scarafia, autore di Torri d'Avorio. Grazie. Nel libro si parla a un certo punto anche di Baudelaire, del suo armadio, della sua passione per l'arte antica, che a mezzo di debiti acquistava e rivendeva, consentendogli però di possedere in certi periodi opere importanti del Domenichino, di Poussin, di Velázquez. Doveva essere Baudelaire molto volubile e facile agli entusiasmi e poi alle delusioni, e infatti questo emerge dal libro di Alan Weiss, Baudelaire cerca gloria, pubblicato da Sellerio, 204 pagine, 13 euro, tradotto da Tiziana Camerani. Nel 1861, a Baudelaire quarantenne, nonché reduce dal processo per pornografia intentatogli per aver pubblicato i libri Fiori del Male, a Baudelaire, dicevo, esplode il desiderio di diventare niente di meno che accademico di Francia. L'Accademia di Francia è quanto di più ambito possa esserci per un letterato francese, e naturalmente un qualcosa di addirittura sacrale, e ben difficilmente sarebbe stato possibile per uno scrittore maledetto come Baudelaire entrarci. Però Baudelaire se lo mette in testa e comincia a fare una vera e propria campagna elettorale. Appena saputo della notizia della morte di un accademico, cerca di sostituirlo e quindi quindi comincia questa forsennata campagna elettorale per cercare di conquistare l'ambito seggio. Incontra gli accademici, scrive, commenta e Weiss riordina in questo libro appunto il materiale, ricavandone un vero e proprio romanzo a tratti ironico e che ci dà un altro quadro della Parigi accademica della seconda metà dell'Ottocento, per la quale Baudelaire naturalmente non può che rimanere un corpo estraneo, e infatti all'Accademia naturalmente non c'entrò. Un altro grande squarcio di vita parigina, questo del Settecento, è il romanzo Ourika di Madame de Duras. È pubblicato da Adelphi, 170 pagine, 13 euro, ed è tradotto da Graziella Cillario. Lei è una dama vissuta tra il 1777 e il 1828, scrittrice, animatrice forse del più importante salotto nell'epoca della Restaurazione, autrice tra l'altro di questo breve romanzo, sono meno di 70 pagine, che ebbe un enorme successo ai suoi tempi, tanto da ispirare addirittura delle vere e proprie mode anche nell'abbigliamento. Benedetta Craveri nella postfazione ci dà un ritratto molto vivo di questa scrittrice e di questo libro, che racconta dell'amore impossibile di una giovane schiava di colore portata in dono in Francia a un dignitario. Ecco come Benedetta Craveri ci spiega l'importanza di questo libro nella sua postfazione. Scrive infatti: a distinguere Ourika dalle tante storie sentimentali di cui è ricca la narrativa femminile del tempo, a conferire al romanzo una dimensione tragica, non è solo il colore della pelle dell'eroina, ma il capriccio del caso che l'ha portata in Francia ancora bambina. Qui, diventata adulta, scopre come educazione, morale e fede non bastino a rendere gli individui uguali e come anche le migliori intenzioni di un'elite di spiriti illuminati si rivelino impotenti di fronte a pregiudizi sociali di cui nemmeno la rivoluzione è riuscita ad avere ragione. Ultimi arrivi. Vi segnalo l'ultimo titolo di Roberto Bolaño, è pubblicato da Adelphi, 142 pagine, 15 euro, Amuleto, tradotto da Ilide Carmignani. È un libro del 1999 che promette bene fin dalle prime righe. Dice infatti l'autore: questa sarà una storia del terrore, sarà una storia poliziesca, un noir, un racconto dell'orrore, ma non sembrerà perché sono io quella che la racconta. Sono io a parlare, quindi non sembrerà, ma in fondo è la storia di un crimine atroce e il libro non tradisce questo inizio. Poi di Franco Matteucci vi segnalo Lo show della farfalla, Newton, 238 pagine, 14,90 euro. Questo è il libro sulla rivolta di una donna di provincia, abitante di Buriland, dove si concentra il peggio della società italiana, vessata e frustrata la protagonista, che spiccherà il volo come una farfalla, appunto. E infine di Dora Held vi segnalo un libro che ha avuto un enorme successo in Germania, In vacanza con papà, è pubblicato da Salani, 334 pagine, 16,80 euro, tradotto da Valentina Daniele. L'autrice va in vacanza con papà, ma non è una bambina, è più che trentenne, ma il padre la tratta ancora come una completamente immatura e quindi questa forzata convivenza darà vita ad alcune buffe avventure, ma anche a una riscoperta del rapporto con il padre e con se stessa. E con questo ringrazio Vittorio Mussini e Margherita Aina in redazione, Paolo Corleone in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it. Sul nostro sito www.radio24.it potete riascoltare le nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.